Che stanotte a mezzanotte vada alle palme. quella Miguel Torrena è una canaglia, asci non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine papagallo si apre di ti sposa, segno ci sposerà di pittiremo. E poi niente, qualcosa mi sa di suo cielo, perché con suo donno paese, che maratto la città, ma che ti bene, non troppo ciò, ci sono cicce, non cicce in tristi. Io crede, brutte nuove, su coraggio. E anche nonna se ne andata. Straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi mostri? C'è quello che gli ho detto, ma la polca si deve il whisky schietto. In vento, gli aggiusteremo i ricci. Cammino. dal fascino dell'ora. E questo il suono che non m'ha ingannato, Chance! Vi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate. E come non potrei, fu bel sentier che pena potrei. Fu nel tornare, offriste un primo di Gesorino. Dentro che balla tu quel pan di Pelofino, giunto da Sacramento. Figlio di cane, mostraci la tua lurida faccia.

Thank you. Let me go!

andiamo a dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. Se volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. Oh, fine tra portà del fine. No, entra, no, entra. Non credete, non puoi uscire. Entra, no, entra, no. Scappai se per il mondo salvi qui. No, se per il no, nascoti, nascoti. Avete la porta, voi mangi. Resta, no. Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez? Ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you. no, non c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là! Sacramento, la scelta noi accorda a pistola. Pronto, taglia, a te. quante? Due. E a che tu l'adori? È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Ed avrò fra le mie braccia tre veni di vinto. Presto già, perché te poche cose stare che devo darvi. No, è la bottiglia, vedo, ma mi chiedi dov'è. Presto già, e non chiedo perché no. Viva e per la casa! Sul viso, ma perché io? È un fatto a cavallo! Come sopra sembrava ormai sbacciato, la vita è stata scappata, per lì con tempo, racconta al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, al tempo, tutti, vero? Adesso vorrei stare in paese. Hai saccheggiato tutto il paese. Ha vandalizzato, rubato e ucciso. No! La squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugnalaste le spalle, il povero Tommy. No! Non è vero! Sì! Non mi riesci ad armare. Postiglione e celesti, no! Dove tu ci desti, no! Dove a volte, volte, volte, volte! Maledizione a me, fui ladro, ma assassino mai! Alla colpa, quella notte venisti per rubare, con gli occhi e sorriso di vigna riservarti, che lei ci ha rubato, gli ha rubato, con le tira da casse, risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, pistola la quale. sciogliete un braccio, mi scossa di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Thank you. la bene. Una gonna vi fa sbiancare il viso. necessario troppo le dobbiamo. E tu mio trino poi resigna. E vieni che anche tu non scrivi le prime. E nel suo dritto e partiva è necessario. Vorrà. Il tuo buon i padroni siamo noi, andiamo. Il tuo marito, andiamo, ragazzi. È necessario. Non lo vorrei tu. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面。